Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Tra le direzioni di sviluppo tecnologico che ricadono dentro il campo delle energie rinnovabili, una riguarda lo sviluppo di macchine agricole destinate alla raccolta e al trattamento delle colture energetiche. Proprio settimana scorsa, infatti, è emerso come, per esempio, in taluni casi la mancanza di macchinari adatti al raccolto di alcune specie specifiche del comparto energetico finisca per dirottare la semina su altre colture che magari sono meno efficienti ma poi più facili da raccogliere coi macchinari tradizionali. Cerchiamo allora di fare il punto su questo aspetto con Sandro Liberatori, che è direttore di ENAMA, l'ente nazionale per la meccanizzazione agricola. Buonasera Liberatori. Buonasera. Allora, partiamo dal costo di queste macchine. Quanto incidono le macchine agricole sul costo di gestione di un'azienda agricola? Sì, questa è una buona domanda. Infatti sappiamo che oggi l'incidenza del costo della meccanizzazione è molto alto. Le macchine possono incidere anche per il 50% e più dei costi, per cui la meccanizzazione è, se non la prima, certamente tra le primissime voci di costo di un'azienda agricola. E questo indipendentemente da quello che produce, insomma, mi pare di capire. Assolutamente, soprattutto però se poi parliamo di coltivazioni energetiche, ecco. Allora lì diventa molto importante rendere il ciclo il più efficiente possibile. E qui siamo un po' indietro, nel senso che queste coltivazioni stanno assumendo e assumeranno probabilmente ancora più importanza in futuro, però diciamo dobbiamo recuperare questo ritardo dell'agricoltura per certi versi nei confronti dell'industria, che sembra abbastanza pronta a sfruttare la biomassa per bene. Sì, per quanto riguarda la meccanizzazione possiamo avere o un adeguamento di macchine esistenti, pensiamo ad esempio alle modifiche che si possono fare su una falcia trincia caricatrice per la raccolta della canna, per la produzione poi di etanolo. Lì sono macchine tradizionali che sono modificate, hanno una testata modificata proprio per operare con queste altre colture. Ecco, che cosa taglierebbero normalmente queste macchine, per intendersi? Generalmente lavorano sul mais, oppure quelle che usiamo sul cardo sono delle normali mietitrebbie, su cui andiamo ad operare delle modifiche. D'accordo. Poi passiamo invece su colture particolari che rendono invece necessaria l'applicazione di macchine specifiche. Parliamo ad esempio delle colture legnose, dove dobbiamo avere delle macchine di una certa dimensione e di una certa potenza per poter raccogliere e triturare quelle masse legnose di notevoli dimensioni. Certo. Allora lì abbiamo macchine ad hoc e queste ci sono, per cui queste sono, è lo stato dell'arte. Poi su questo stato dell'arte possiamo costruire quello che è il futuro che deve tendere a due parametri in sostanza, quella che è l'efficienza del lavoro della macchina, ma anche l'efficienza economica della macchina, perché naturalmente abbiamo comunque di investimenti notevoli, certo, l'abbiamo detto, insomma, molto pesanti per il bilancio dell'azienda agricola. Esatto, esattamente. E su qui la ricerca sta facendo molto, anche come NAM abbiamo finanziato delle proposte interessanti che si possono consultare sul sito, ma molto interessante è proprio il futuro. Lei sa meglio di me che per produrre energia meno acqua c'è nella massa vegetale, più alto è il rendimento. Se viene bruciata non c'è dubbio, perché buona parte del calore lo assorbe l'acqua per evaporare in pratica, no? Esattamente, e allora il togliere l'acqua è uno dei punti cardine. Più riusciamo a togliere l'acqua in prossimità del punto di raccolta, sì, il che vuol dire che poi trasportiamo solo quello che veramente serve, non l'umidità che poi andiamo a togliere, certo, da un'altra parte. Pensiamo al pellet, per esempio, che usiamo nelle caldaie. A me piacerebbe molto vedere una macchina che sia in grado di raccogliere tutta questa massa legnosa che troviamo nei nostri boschi, sminuzzarla, questo è possibile, abbiamo, certo, ampie tecnologie su questo, pressarla, abbiamo ampia tecnologia, ma togliere l'umidità, questo è un nodo. Allora lì bisognerebbe esplorare delle strade nuove, non so se le microonde possono aiutarci, le strade che siano però economicamente valide, perché dobbiamo anche fare un bilancio energetico. Ecco, insomma, eliminare l'acqua sul posto, per esempio già nel bosco, riuscire a fare una prima deidratazione di questo materiale legnoso fa sì che si possa trasportare più facilmente, sì. Ma anche che non marcisca, è uno dei problemi per lo stoccaggio, no, delle biomasse. L'eliminazione dell'acqua aiuta la conservazione. Ma nel caso del pellet, noi trasportiamo un volume enorme di materiale che poi quando andiamo a produrre il pellet si riduce a un volume bassissimo, certo. L'incidenza del trasporto è enorme. Poi c'è il discorso ambientale, perché renderebbe nuovamente conveniente una corretta gestione dei boschi, per cui vuol dire mantenimento dei boschi e minori costi per incendi e tutto il resto che riguarda appunto il degrado di nostre aree. Sì, qui viene fuori questo discorso importantissimo del rilancio dell'agricoltura anche come forma di tutela, di controllo, di mantenimento in buon ordine del territorio. Senta, ma visto che costano così tanto queste macchine, ma non c'è modo, come dire, non possono mettersi d'accordo gli agricoltori, condividere alcuni macchinari? Sì, esistono varie forme. Quella più interessante è quella del conto del sismo, ovviamente, dove c'è un'impresa agromeccanica, ovvero impresa agricola senza terra ma con le macchine, che va a lavorare nelle aziende. Questo consente un costo certo, visto che le tariffe sono ad ettaro lavorato. È diffuso questo conto terzismo già oggi o qualcosa che insomma sta cominciando ad apparire adesso? È diffuso da tempo e dovrà esserlo di più anche nel caso delle colture energetiche. Grazie a Sandro Liberatori. Bene, per stasera è tutto, domani torniamo a parlare di fotovoltaica dopo una settimana in cui ci siamo un po' disintossicati per scoprire che sui tetti vale sempre la pena di mettercelo. Buona serata!